9 in punto, la versione di Oscar. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 17, dico apposta strascinando questo venerdì 17 perché alcuni sono convinti che naturalmente sia una formula che non porta bene, ma noi non siamo affatto scaramantici, auguri a San Flaviano, e non possiamo essere scaramantici. Se fossimo scaramantici, vi parrebbe mai che potremmo dedicare una trasmissione alla riforma dei partiti? No, perché automaticamente ci scapperebbe da ridere, ma poiché noi abbiamo l'impegno con noi stessi di non essere antipolitici e di tentare di affrontare ragionevolmente anche i misteri insolubili apparentemente per la ragione umana, tanto è vero, non possiamo che occuparci anche della riforma più promessa e mai praticata nella storia, ma non solo del nostro paese, state attenti. Se andiamo in un'ottica comparata ai partiti, per quanto io possa rispettare l'opinione di molti di voi, forse addirittura la maggioranza, non lo so, sono convinti che sono esattamente ciò che c'è scritto in Costituzione, gli strumenti attraverso i quali si organizza, si determina la partecipazione dei cittadini all'indirizzo politico del paese. In realtà, per chi aderisce alla mia scuola, Public Choice, James Buchanan, Gordon Tullock e così via, i partiti sono degli interessi minoritari tenacemente organizzati per perseguire i loro interessi pro tempore, e per questo si candidano ad amministrare il paese, per perseguire il loro interesse. L'essenziale è sapere che la coincidenza tra presunta volontà generale, interesse generale, questo cancro che dai tempi di Rousseau la gente si tiene in testa perché è convinta che esista, è una formula che si spaccia, è una formula che non ha niente a che vedere con la realtà. La realtà è che minoranze organizzate per perseguire i propri interessi pro tempore, quando poi vincono le elezioni o si alleano in Parlamento per sostenere i governi, tentano, come è giusto, di fare il loro mestiere. So che così dicendo e brutalmente sintetizzando così la dottrina di Public Choice sto urticando la sensibilità di molti che sono convinti invece che l'interesse generale, la volontà generale esista e che naturalmente essa coincida con la capacità di essere perseguita dal proprio partito, mentre tutti gli altri no. Ma siccome ci sono passato anch'io per l'affezione convinta che il partito di cui ero convinto quando ero giovane fosse l'interesse generale e tutti gli altri no, diciamo che poi col tempo e toccando con mano dal di dentro i guasti di cui ci occupiamo oggi, i guasti cioè di un sistema che lascia ai partiti, ha lasciato nella storia della Repubblica, non solo nella Seconda Repubblica, enormemente troppo spazio, i partiti inevitabilmente hanno teso ad approfittarne. Ecco perché oggi, nel ventennale di Mani Pulite, la grande speranza di molti e di troppi che con le manette e i processi si potesse rifondare la morale pubblica e politica del nostro paese, un ventennale, mi pare di capire, sul quale si stende un pietoso velo sull'intenzionalità di chi all'epoca ha avuto questo atto rifondativo manettaro. Le parole della Corte dei Conti di ieri, 20 anni dopo, la corruzione sta dilagando, eccetera, eccetera, eccetera. Le recenti imprese del tesoriere della Margherita, partito che ha terminato il suo corso, eppure i milioni di tesoriere se li prendeva e tutti gli altri dicevano non sappiamo, eccetera, eccetera, tranne alcuni come Parisi, che avevano segnalato per tempo tutto ciò che non vedevano bene in quel bilancio, e poi le polemiche tra gli ex componenti di un altro partito storicamente a bilancio chiuso, come AN, che nelle due parti, quelli che hanno seguito fine FLI e coloro che invece sono andati in PDL, oramai si sfidano a colpi di carte bollate intorno all'utilizzo del patrimonio di quello stesso partito, e poi le innumerevoli attestazioni quotidiane nelle cronache, solo ieri arrestati due amministratori, un consigliere comunale di Pomezia addirittura, che ha preso una tangente di 5.000 euro tutti i mesi per 4 anni a quanto pare, e così via. Le vicende sono in tutta Italia, sono totalmente trasversali e ci testimoniano che questa riforma dei partiti ha bisogno di gente che ci creda, prima che di gente che ci faccia. A me scappa un po' il sorriso, però siccome sono state depositate nuove proposte in questo senso, cerchiamo di capire se è la volta buona, cerchiamo di capire se dopo tanti tanti anni nella cornice di questo governo tecnico che toccherà la legge elettorale, perché questo è il punto di fondo, l'accordo per la legge elettorale, per la riforma elettorale c'è, allora forse può essere che siccome c'è un cambio di regime in arrivo, di regime di rappresentanza, perché l'accordo per la rappresentanza totalmente proporzionale è arrivato, ce ne occuperemo più avanti perché i particolari ce li diranno a tarda legislatura per evitare che gli altri si organizzano che non sono in Parlamento, voglio dire su circoscrizioni, ampiezza relativa e su meccanismi di soglia in basso per la rappresentanza e in alto per eventuali premi di maggioranza destinati a non scattare, ma in realtà l'accordo per la proporzionale c'è, quindi è finita la seconda repubblica che, di questi anni, e allora può essere che come provvedimenti, come pandette additive per così dire, se mi consentite l'ironia, i partiti per effetto delle malaparate recenti pensino che sia giusto anche intervenire su questo punto. Io ricordo a tutti che i partiti sono associazioni private, che nella nostra legislazione non abbiamo mai adottato gli atti di indirizzo come leggi in materia sulla trasparenza, la democrazia, le garanzie minime che all'interno dei partiti fossero garantiti principi come questi, quindi i partiti sono a tutti gli effetti associazioni private, sappiamo che a queste associazioni private, malgrado il referendum anni fa sul finanziamento, si è adottato un regime di rimborso elettorale 5 volte più oneroso per le nostre tasche di contribuenti, sappiamo che a questo si aggiungono poi le ricche provvigioni in bilancio degli enti locali come del Parlamento per i gruppi parlamentari eccetera eccetera eccetera. Allora ieri Bersani presentando, il segretario del PD presentando una proposta del PD che si aggiunge a quella dell'UDC nei giorni precedenti, ha detto che la riforma dei partiti è la più importante addirittura a cui mettere mano, e per questo abbiamo con noi degli esponenti politici ai quali chiediamo con grande sincerità e concretezza che cosa e per quale ragione i cittadini in ascolto dovrebbero dar loro retta che veramente ci sarà questa riforma e in che cosa si contraddistingue la loro proposta. Cominciamo immediatamente con a presentarli. Abbiamo Gianluca Galletti che è il vicepresidente UDC, quindi Terzo Polo. Buongiorno e grazie Galletti. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Antonio Misiani, che è deputato e tesoriere del PD. Buongiorno Misiani. Buongiorno a voi. Paolo Bracalini, giornalista, scrive per il giornale e autore di un bel librozzo che si chiama Partiti S.P.A., dove trovate molti dati e vicende relative a questo tema. Grazie a Bracalini. Allora Misiani, cominciamo in ordine, voglio dire, di deposito, quindi ieri Bersani ha tenuto la conferenza stampa, tentiamo di spiegare in che cosa si fonda la vostra proposta e che speranza avete che davvero si possa mettere mano a questa che Bersani ha definito la riforma più importante. Beh, la proposta innanzitutto stabilisce che i partiti diventano associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, gli statuti vanno pubblicati in Gazzetta Ufficiale e devono rispondere ad una serie di requisiti di democrazia interna, innanzitutto l'articolazione degli organismi dirigenti, i diritti e doveri degli iscritti, la presenza delle minoranze, le modalità di selezione delle candidature, eccetera, eccetera, e dei requisiti stringenti di trasparenza nell'uso delle risorse finanziarie. Noi proponiamo la certificazione obbligatoria dei bilanci dei partiti da parte di società esterne e indipendenti, il PD lo fa già dalla sua fondazione, noi chiediamo che questo diventi un obbligo per tutti. Proponiamo il controllo affidato alla Corte dei Conti dei bilanci dei partiti, mentre oggi viene fatto un controllo meramente formale da parte di un collegio nominato dai presidenti di Camera e Senato. Proponiamo di abbassare a 5.000 euro la soglia oltre la quale le donazioni diventano pubbliche con nome e cognome. regolamentiamo le primarie e scommettiamo molto su internet. Non c'è bisogno soltanto della certificazione, del controllo della Corte dei Conti, c'è bisogno di un controllo diffuso dei cittadini che devono poter vedere in ogni momento come i partiti si procurano le loro risorse e come le spendono. Attivando questo controllo diffuso, noi speriamo che i cittadini incalzino la politica, lo fanno già ogni giorno, ma soprattutto aiutino a migliorarla. Alcuni quotidiani, cito il Corriere della Sera, nella conferenza stampa del segretario del PD di ieri hanno colto l'elemento per fare il titolo, soprattutto nel dire però no a tagli dei rimborsi elettorali ai partiti. È così? Beh, guardi, tra i cosiddetti costi della politica, i rimborsi elettorali sono quelli che sono stati tagliati veramente e di più. Ai partiti andavano 289 milioni di euro nel 2010, quando c'era ancora il doppio rimborso e si raggiunse la punta massima. A regime, con i tagli già decisi negli ultimi due anni, si scenderà a 143 milioni, quindi è un costo che è stato dimezzato ed è ad un livello ormai paragonabile, anzi inferiore a quello della Germania nettamente, ma paragonabile a quello della Spagna e della Francia in termini pro capite, quindi non c'è un'anomalia nella quantità di risorse pubbliche destinate alla politica, c'è un'oggettiva anomalia nei controlli che sono molto deboli, come dimostra il caso della Margherita e altre brutte vicende che si sono susseguite, e anche dal punto di vista della trasparenza c'è molto da fare come passi in avanti, perché se lei va in Europa, va in Francia, in Gran Bretagna, trova su internet l'elenco dei donatori, i conti dei partiti, analisi indipendenti. Qui in Italia siamo fermi alla Gazzetta Ufficiale, che bisogna andarsela a procurare, e l'obbligo di pubblicare i bilanci su due quotidiani una volta all'anno. Mi sembra un po' pochino per attivare quel controllo diffuso di cui parlavo prima. Senta, le faccio tre domande a raffica da lei, per passare poi a Galletti. Allora, primo, io temo che col proporzionale iperdebiteranno di nuovo i costi, perché il bipolarismo costringeva, diciamo, a scelte prioritarie sulle campagne di coalizione, sui candidati a governare. Mi interessava questa sua opinione sul ritorno al proporzionale. Secondo, se non si è per tanti decenni in realtà emanata una legge sui principi di garanzia, non solo la trasparenza ma anche la democrazia interna dei partiti, è stato perché tutti i leader del partito di volta in volta in Parlamento erano percorsi dei brividi all'idea che di fronte a correnti interne, minoranze, che ne so, se pensiamo recentemente, modalità di contestazioni su come si organizzano le primarie eccetera eccetera, con una legge sfociassero con un effetto moltiplicatore ancora di più di quanto non sia raramente capitato in a dire la magistratura per dissensi politici. Ecco, quindi esiste questa ipotesi secondo lei? Le risparmio la terza, se no sono troppe in una volta. Va bene, provo a rispondere. Dipende che tipo di sistema proporzionale. Un proporzionale con un meccanismo di preferenza è indubbiamente un moltiplicatore dei costi, come dimostrano le elezioni regionali. Viva la sincerità, perché questo è così. È così, le cose bisogna dirle per come stanno. C'è una moltiplicazione dei costi legati anche ad una esasperata personalizzazione della politica. Quindi io credo che sia necessario un sistema elettorale che riavvicini i cittadini agli eletti, che salvaguardi per quanto possibile un sistema dell'alternanza, magari con un bipolarismo meno di guerra e meno blindato di quello che abbiamo vissuto nella cosiddetta Seconda Repubblica. Bisogna fare molta attenzione anche alla ricaduta sui costi, perché se noi andassimo ad un sistema che fa esplodere i costi della campagna elettorale, la Corte dei Conti altro che 60 miliardi di corruzione, e questo è un rischio da prevedere e bisogna che l'opinione pubblica vigili anche su questo. Poi, per quanto riguarda la seconda domanda, io credo che una legge che metta alcuni paletti molto forti possa innanzitutto aiutare a superare alcune delle anomalie della Seconda Repubblica, i partiti personali un po' opachi dal punto di vista del funzionamento interno e delle regole di trasparenza, e poi certo, se si evita di dover ricorrere alla magistratura anche per dirimere le diatribe interne, credo che questo sia un guadagno per l'immagine dei partiti, che di questi tempi non è eccelsa. Io però io su questo la penso proprio diversamente e con tutto rispetto, perché penso che se facciamo intervenire le pronunzie, cioè se mettiamo nelle mani del PM anche gli argomenti politici interni ai partiti, cioè... no No. Ah, in questo senso no, però se ci sono regole chiare, io credo, a parte che già oggi capita. Ma lei lo sa come a pratica di vita di partito. Vede, la vita di partito è una cosa in cui quando c'è un dissenso politico si scopre gli articoli dello statuto per mettere le mani. Cioè, insomma, voglio dire, avendoci trascorso buona parte della mia illusoria gioventù. No, lo so bene, quindi... E a quel punto io su questo punto diciamo che ho un mi limito a sorridere, perché io sono dell'idea che vanno regolamentati, però la vita interna dei partiti nelle mani dei giudici ci crederò in un'altra vita, perché io ho sempre visto leader di partiti, maggioranze di partiti, convergenze di valori e di interessi che sono come sempre quelli che poi prevalgono all'interno dei partiti, che a quel punto esercitano il proprio indirizzo. L'indirizzo si esercita non proprio articoli alla mano dello statuto, questa è una cosa inevitabile. E tanto meno rivolgendosi alla magistratura, però le segnalo che accade già oggi. Noi abbiamo avuto a Napoli il caso di un segretario provinciale del Partito Democratico che ha fatto causa civile al partito. Infatti, secondo me, questo rischio già c'è, ma figuriamoci. Allora, adesso uguale attenzione alla proposta dell'UDC, che è venuta anche prima. Casini su questo spesso ci è tornato negli ultimi mesi con crescente vigore. Allora, Galletti, anche per voi, quali sono le caratteristiche della vostra proposta? Cosa vi fa pensare che siamo in procinto di poter varare una riforma dei partiti? Ma la proposta va nel senso di dare più democrazia interna ai partiti, quindi noi abbiamo ipotizzato uno statuto che deve essere sottoposto a un giudizio della Corte di Cassazione e solo dopo può essere omologato. Quando c'è l'omologazione, il partito acquista la personalità giuridica e solo in quel momento può accedere ai rimborsi elettorali. Quindi solo i partiti che hanno uno statuto che assicura la democrazia interna e assicura un buon funzionamento può accedere ai rimborsi elettorali. Poi abbiamo agito sulla trasparenza dei conti e l'abbiamo fatto attraverso un controllo da parte della Corte dei Conti, necessario e indispensabile anche questo per poter ottenere il rimborso elettorale. Due, abbiamo ipotizzato che tutta la liquidità dei partiti debba essere obbligatoriamente investita in titoli di Stato, questo per dare più trasparenza ai conti dei partiti. Terzo luogo, tutti gli immobili devono essere intestati, devono essere tutti immobili acquistati con i rimborsi elettorali, se ce ne sono, nel caso dell'UDC ad esempio non ce ne sono, debbono comunque essere intestati al partito e utilizzati per fini istituzionali. Quarto, se un partito dà contributi a fondazioni o a altri enti e organismi, anche le fondazioni che ricevono questo contributo debbono far certificare i propri bilanci dalla Corte dei Conti, perché se no questo diventa un altro elemento di distrazione di fondi. Non ultimo, che lo prevede anche la proposta del PD, l'abbassamento a 5.000 euro della pubblicità dei contributi ricevuti con nome e cognome. Questo mi sembra che possa dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione da una parte e dall'altro assicurare trasparenza. Chiaramente anche noi prevediamo che i bilanci siano pubblicati su internet a cura della Camera e del Senato, quindi maggiore trasparenza e maggiore pubblicità in questo senso. Cosa mi fa pensare che si possa fare? Che ormai questa è una richiesta da parte giusta da parte della gente, abbiamo aspettato troppo a farlo, qui dobbiamo fare autocritica, questo si poteva fare prima, abbiamo aspettato troppo, serve solo ed esclusivamente se c'è un cambio di rotta da parte dei politici, degli amministratori, cioè non bastano solo buone regole, non bastano solo buone regole, ci vuole anche più moralità ed etica. Se manca quella, le regole possiamo sempre sorpassarle, quindi una buona legge in questo senso serve, ma ci vuole anche più consapevolezza da parte degli amministratori. Allora, io devo dire la verità, troverei per esempio, osservazione costruttiva, non è una critica, troverei singolare per esempio sottoporre al regime del controllo, da quello che capisco qui non è proprio il controllo ordinario, quindi ex ante ex post, ma quantomeno quello ex post alla Corte dei Conti, per esempio i partiti, quando noi viviamo in una situazione istituzionale nella quale gli organi costituzionali di primo rango continuano ad essere esclusi dal vaglio ex ante ex post della Corte dei Conti, e quindi in primis il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e così via, cosa che non ho mai, la Presidenza della Repubblica, cosa che io non ho mai compreso, a dire la verità, non ho mai capito per quale ragione nel nostro ordinamento continua a vigere questa eccezionalità degli organi di alto rango costituzionale. In che cosa consista questa eccezionalità? Francamente è anche per questo che poi noi assistiamo anno per anno a pretese di contenimento delle spese di questi organi costituzionali, che sono impegnati in una bella gara poi con i rispettivi presidenti a voler far vedere ai cittadini che tagliano di più, quanto è quando poi scopriamo che è il solito meccanismo rispetto all'aumento delle dotazioni di cui automaticamente a qualunque livello la pubblica amministrazione ritiene di avere diritto, rispetto all'aumento quindi della spesa pubblica, ci sono delle rinuncette ex ante che ex post si traducono in un aumento comunque dei livelli di spesa, perché funziona così questa singolare procedura di contabilità pubblica molto italiana, per cui i bilanci non si fanno col zero budget base come si fanno nelle imprese quando le cose fanno male, ma si fanno con l'andamento inerziale a legislazione vigente, che è quello attraverso lo quale la ragioneria generale dello Stato ha costruito nei decenni il consenso a una politica che di spese ne vuole sempre di più, e infatti ne ha fatte sempre di più. Allora, è singolare, no? Ecco, mi consentano Galletti e Misiani, che i partiti debbano entrare in un regime di controllo della Corte dei Conti. Facciamoci entrare tutto e anche i partiti, tutto, però abbattiamo questa pretesa del Camera, Senato, Quirinale, eccetera, eccetera, per la quale per loro i controlli non devono essere quelli ordinari che ci sono per tutta la pubblica amministrazione. Prima di andare in pubblicità, un flash da Bracalini. Ci credi tu che ci siamo in procinto di una riforma? E anche il passaggio di legge elettorale, che in qualche maniera sarà un passaggio dalla Seconda Repubblica alla Terza o a un 2.0b, non so come dire, porterà secondo te i partiti a dire ma sì, mettiamoci anche un pezzo di garanzia in più agli occhi dell'opinione pubblica, oppure no, Bracalini? Ma io ho molti dubbi, devo dire, anche perché mi fa un po' sorridere questa fretta che hanno i partiti adesso, dopo 15 anni che c'è una legge che evidentemente lacunosa e sbagliata sul finanziamento dei partiti, adesso dopo questi scandali correre a modificare la legge, a tagliare sulla base di quelle che sono delle stime, perché è vero che ci sono dei tagli previsti, però forse conviene ragionare su quello che è successo fino a poche settimane fa, cioè le spese del 2011, 200 milioni di euro ai partiti, a cui bisogna aggiungere altre anomalie italiane, cioè finanziamenti diretti e indiretti, come i fondi ai gruppi parlamentari, che sono altri 70 milioni di euro che vanno agli stessi partiti che prendono i rimborsi elettorali, e poi i soldi quotidiani di partito, che è un'altra bella fetta di 50 milioni di euro l'anno, che va a giornali, espressioni di partiti, veri o finti, ma comunque un altro finanziamento ai partiti. Ed eccoci tornati qua in studio. Se volete capire di più e meglio quello che tra pochi minuti il cancelliere tedesco dirà, leggete la Süddeutsche Zeitung, e ho capito che dice ma qui bisogna imparare il tedesco, e temo che il tedesco bisognasse averlo in punta di lingua un pochino per capire meglio che cosa succede in questi giorni, perché è il quotidiano che oggi secondo me spiega meglio il confronto aspro e sincero che c'è stato all'interno del governo germanico su che cosa fare della Grecia. Avete capito tutti che dopo il voto del Parlamento greco in realtà non è considerato per niente soddisfacente l'elenco degli impegni e la credibilità della loro traduzione in concreto da parte della Grecia, e sulla Zeitung ha un bel po' di roba scritta stamattina sul confronto che c'è stato tra il ministro delle finanze Schäuble e il cancelliere tedesco. Le tesi dei due sono diverse, perché il ministro delle finanze Schäuble, che è quello che più ha premuto in queste ultime due settimane con le dichiarazioni alle quali la politica greca è più insorta, perché ha chiesto un commissario europeo prima, ha chiesto che i fondi strutturali di sostegno di medio lungo periodo non vengano dati alla Grecia ma vengano detenuti in controllo da un ente terzo per garantirsi che l'attuazione greca vada avanti e così via. È evidente che Schäuble faceva capire ai mercati che la sua linea è portiamoli a, non a un semi default con i 130 miliardi ma a un default anche controllato ma totale e senza dargli direttamente gli aiuti ma continuando a controllarli noi dall'Unione Europea. E, ecco, di fronte a questa opinione del Ministro delle Finanze, il Cancelliere ha l'opinione che in realtà di fondo la valutazione sia la stessa ma che non sia possibile procedere in quella strada per evitare gli effetti a catena su Portogallo, Spagna e Italia. E del resto la visita con Monti era oggi per parlare praticamente solo di questo punto, perché la Germania sta svolgendo una consultazione rapida per capire come comportarsi con la Grecia, perché è ovvio che non si può stare settimane appesi a questa non soluzione che si deve alla mancanza di chiarezza della politica europea e in primis devo dirlo a chi ha voluto il meccanismo di compartecipazione dei bondholder privati, cosiddetto PSI, senza capire che così bisognava essere coerenti fino in fondo. Se si dice al mercato che i detentori di bond devono compartecipare al rischio di default, si dice, in altre parole, che i paesi europei possono essere esposti al rischio di default. La cosa più stupida è attivare un meccanismo di questo tipo, che si è attivato a maggio del 2010, per poi, quando il mercato ti segue, dire non si può fare. Perché questo è il punto, perché significa essere stupidi, significa incamerare il doppio danno di mancanza di credibilità, oltre che massacrare ovviamente paesi che hanno colpe terribili per avere mentito sul vantaggio dell'euro, ma che così incamerano anche l'effetto di deflazioni rapidissime che bruciano stock di patrimoni e moltiplicano i disoccupati nel breve, senza neanche raddrizzarli questi paesi. Ecco, siamo in queste belle condizioni. Poi dite perché tenevo i Doors? Ecco, siamo in queste belle condizioni. Ora sentiamo, perché la fotografia della riservata che si ha dei contatti del tedeschi vuole che Finlandia e Austria siano sulle posizioni di Schäuble, del ministro delle finanze, cioè strategia default, tentando di farla compatibilmente ancora alla presenza della Grecia nell'euro, mentre invece l'Olanda sarebbe per una soluzione ancora più radicale, due punti, uscita della Grecia dall'euro, ecco, e pare anche il Lussemburgo. Questo è il quadro riservato che viene descritto stamattina sul Deutsche Zeitung. Mi risparmio, perché dobbiamo tornare al tema del giorno, tutte le altre indiscrezioni che trovate tra Frankfurter Allgemeine, Handelsblatt, Financial Times, Deutschland. Dico che in tutto questo la stratagemma che la BCE avrebbe ottenuto di questo Financial Times Deutschland ne parla, per il quale non compartecipare alla perdita di valore dei titoli greci oggi ma domani di qualunque altro paese europeo, come c'è il Portogallo, dovesse trovarsi in queste condizioni, non entro nel dettaglio tecnico, ma non mi convince per niente, perché la mia idea è che se i privati ci perdono, ci devono perdere anche i pubblici detentori. Però non approfondiamo, ma anche questo è un meccanismo che non convince facilmente i mercati, perché è un po' una furbata, se ve la posso dire, in termini non tecnici. E a questo punto, ragazzi, teniamo le orecchie aperte e vediamo qual è la sintesi a cui erano i tedeschi. Non mi aspetto un annuncio eversivo, però perché sia chiaro a tutti che il nostro compito è quello di non spacciarvi facile ottimismo. Purtroppo la situazione che si è creata, dicendo che i paesi possono fallire, è una situazione che invoca coerenze. O si dice abbiamo sbagliato a invocare la soluzione di compartecipazione dei privati. Io ricordo a tutti che a maggio 2010 sono stati i tedeschi a volerla, poi hanno cambiato idea e hanno detto tre mesi fa che deve rimanere un'eccezione. Fatto sta che il governo di questa eccezione, Grecia, ed eventualmente dopo Portogallo, anche il Portogallo avrà bisogno di aiuti, ha bisogno di chiarezza. O si dice abbiamo sbagliato e non si esce dall'euro, qualunque cosa questo comporti, però bisogna dire quale questa cosa comporti, oppure bisogna dire si esce dall'euro, e allora ci pensa il Fondo Monetario Internazionale, e le svalutazioni e così via, e l'effetto naturalmente è che non c'è un danno solo per i greci ma anche per i tedeschi. Chiusa parentesi, ecco perché ascoltare la Merkel tra poco. Allora, ho interrotto Paolo Bracolini, giornalista del giornale, autore del libro Partiti Spa, che diceva, bah, insomma, sì, tagli sì, ma mica tanti tagli rispetto al totale dei finanziamenti del regime precedente. Perdona se ti ho interrotto. Niente, sì, si è affrontato giustamente in queste proposte il tema della trasparenza e della personalità giuridica dei partiti, va benissimo, ma non il tema dei rimborsi, cioè della quantità enorme di soldi che diamo ai partiti, e se sia giusto che sia lo Stato a finanziare i partiti, perché ci sono dei modelli alternativi. Io ho sentito ieri il segretario del PDL Alfano, che ha detto che il PDL sta lavorando ad una proposta che invece va in quella direzione e che sarebbe anche opportuno prendere in considerazione, perché il finanziamento pubblico dei partiti, a parte che in Italia è stato abrogato dal referendum e poi è stato reintrodotto, ma è stato un po' un problema in se stesso il fatto che sia stato il pubblico a finanziare automaticamente i partiti senza nessuna correlazione né alle spese reali dei partiti né poi al numero di voti presi, perché è calcolato sugli elettori, sul corpo degli elettori e non sui voti presi dai partiti. Quindi questo ha contribuito a slegare sempre di più i partiti rispetto alla vita delle persone e alle richieste della società, e li ha trasformati appunto in gruppi di interesse che hanno accumulato potere e anche potere finanziario, perché ci sono dei patrimoni che amministrano i partiti, patrimoni finanziari notevolissimi e immobiliari spaventosi. I DS per esempio hanno 2.400 immobili che sono stati spostati poi in fondazioni per mettersi anche a riparo da possibili pignoramenti per i debiti che hanno i DS da decenni, che costituiscono un patrimonio incredibile che adesso è a riparo da qualsiasi pretesa dello Stato, perché ormai è in fondazioni private dove sono uomini DS e che costituisce un patrimonio incredibile. Altri partiti hanno in banca 40 milioni di euro, 50 milioni di euro come AN, cioè patrimoni enormi che hanno fatto veramente dei partiti una sorta di azienda che pensa soprattutto ai propri interessi. Con questo tema del rimborso pubblico, cioè del ruolo dello Stato nella vita dei partiti, ecco, forse bisognerebbe affrontarlo. Eh sì. E tornano i Dorse, come se tornano, eppure malgrado tutto ovviamente c'è di chi dice sì, però un po' di ottimismo, ma io sono ottimista, però sono per descrivere i processi reali come stanno. Dopodiché non si preoccupino i tifosi del governo Monti, non si preoccupino, i fatti oggettivi sono cambiati nella credibilità della politica italiana, no, non li sottovaluto mai, ma scherzate, è un po' singolare, siete gli stessi che dicevano che ero diventato eccessivo nel dire che bisognava voltare pagina mesi fa, però resta il fatto che il quadro europeo è un quadro di complessiva non credibilità ancora, questo è il punto di fondo, quindi i Dors vanno a oltranza e oggi vediamo che cosa ci riserva la giornata da questo punto di vista. Io ricordo a tutti che questa trasmissione scaricatela anche in podcast per sentirla quando vi è più comodo, io devo dirlo più spesso, da oggi comincerò a dirlo ogni inizio di trasmissione, potete farlo non solo sul sito di Radio 24, potete farlo anche su iTunes, fatelo. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori su questo tema di oggi, della riforma dei partiti. Cominciamo con Orfeo, che è un nome meraviglioso, un nome classico, un nome che si attaglia ai temi della seduzione della credenza, perché questo il mito di Orfeo è questo, che chiama da Milano. Orfeo, che pensi? Sì, mi ha sconvolto quello che ha appena detto della cancelliera della Germania, sono rimasto attonito, ho detto va bene i Dors, va bene che tornino i Dors perché si calzano proprio a pennello. Io volevo fare un intervento in riferimento ai due signori, che il rappresentante del partito che sta intervistando. Sì. Mi sembra che queste due persone non abbiano ancora metabolizzato il fatto che noi italiani 20 anni fa con un referendum a stragrande maggioranza abbiamo detto lo Stato non deve dare i soldi ai partiti, e questi stanno facendo delle riforme in cui bisogna andare dalla Corte dei Conti per far sì che lo Stato deve dargli i soldi per certificare il passaggio di soldi, quando noi cittadini abbiamo detto a chiare lettere i soldi ai partiti non si danno, e questi vogliono parlare della loro credibilità, di riacquistare credibilità facendo un qualcosa che noi abbiamo detto che non vogliamo. Mi piacerebbe che mi rispondesse. E infatti adesso proviamo a sentire la loro risposta. Mi tocca dire che tecnicamente è ovvio che è agevolissimo sostenere che un conto era il regime di finanziamento ordinario. Questo, come lei sa, entra nel nostro ordinamento come regime di rimborso alle spese sostenute per le elezioni. E c'è da dire che non è commisurato, visto che i soldi sono dati a prescindere dalle spese sostenute alle elezioni, nel senso che apprendiamo poi ex post che le spese erano di molto inferiori. Ma naturalmente questo è solo un'argomentazione tecnica. Sentiamo Giuseppe da Ragusa, prego Giuseppe. Sì, buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori e complimenti per la trasmissione. Io non sono d'accordo ai finanziamenti ai partiti, visto che possono permettersi oltretutto di acquistare immobili e di poi magari investire su altri, su beni non mobili e via discorrendo. Io sono un precario, docente precario, non lavoro tutti i giorni e chiaramente faccio sacrifici per pagare principalmente le tasse, ma non solo, quello di portare avanti anche la famiglia. Sono degli sperperi che non ci possiamo permettere più, e vorrei tanto che Monti, presidente del Consiglio attuale, tenesse conto anche di questa situazione, per cui nella sua riforma che inserisca qualcosa di questo tipo. Si cambia registro, i finanziamenti ai partiti non ci sono più, sono enti alla fine indipendenti che si gestiscono da soli, come io mi devo gestire da me e come tanti imprenditori piccoli, medi, si gestiscono da loro. Grazie. Allora, sentiamo una rapida risposta da Misiani e Galletti, 30 secondi e 3 secondi, perché ancora difendere il rimborso elettorale? Misiani. Ma perché bisogna difendere il principio di una base di finanziamento pubblica della politica. Partiti senza finanziamento pubblico dipendono esclusivamente da donatori privati. I donatori privati possono essere singoli cittadini, ma spesso sono anche imprese, grandi aziende e grandi interessi che legittimamente possono dare soldi ai partiti, però siccome... Magari anche fondarne e comandarne uno come Berlusconi per tanti anni. Partiti totalmente dipendenti da finanziamenti privati rischiano di diventare i terminali di interessi privati, e questo non è positivo per la nostra democrazia. Poi è chiaro che i partiti oggi hanno un problema di credibilità, di trasparenza, tutte le cose di cui abbiamo parlato. Però il principio va difeso per questo. Galletti che dice? Non farei di tutto un'erba un fascio. Prima di tutto capisco l'ondata di antipolitica e i giudizi degli ascoltatori sui partiti, ma io non conosco nessun paese democratico che non si fondi sui partiti, cioè non abbiamo alternativa a questo. Si tratta di far funzionare bene quelli che ci sono con trasparenza. Io, per quanto mi riguarda, dico che il mio partito non ha nessun immobile intestato, non ha della liquidità eccedente, spende tutto per fare politica, e ci sarà la Corte dei Conti che valuterà se quelle spese che noi facciamo per sostenere il partito siano congrue o meno. Perfetto, perfetto. Io devo ringraziare Galletti e Misiani e dire a Bracalini, chi la pensa come noi secondo me la perderà ancora una volta, e quindi i cittadini purtroppo continueranno a pagare di tasca loro. Ok, a lunedì.